Beh, ho fatto così l'apparato, guarda, se l'avvicino all'apparato fischia. La modulazione è buona dopo tutto? A voglia. Di lusso, Marco, di lusso. Bella sedia, dai. Ma hai fatto qualcosa all'antenna? Avevi chiamato per quello? No, negativo. No, oggi è sabato. La prossima settimana vediamo di iniziare a prendere un po' di roba, dai. Mamma mia, dovevo fare tante cose all'alba, ho detto mi alzo alle 7, alle 8, sì. Guarda, sono uscito a comprare alcune cose al market qua vicino e ti posso dire che cazzo, non sta girando ossigeno, vedi che un gas, cazzo che veramente ti fa scendere un coccolone. Mi hai fatto uscire per stare male, io devo ritirare i soldi, devo pagare le bollette che comunque non scappano, devo pigliare i giornali che ormai non potrò più prendere perché le edicole sabato sera sono chiuse, devo comprare. Insomma, tutto a puttana è andato, va. Oh, yeah. Mamma mia. Guarda, sono entrato alla Kobe che c'era uno sbalzo di temperatura rispetto all'esterno, avevo i brividi, come sono uscito fuori stava per venirmi un coccolone, cazzo, mi sono gobusato in un gradino del portone perché cazzo mi ha completamente scioccato. Cazzo, mamma mia. E vabbè, se non sono cose urgenti e necessarie, Marco, al limite si può fare anche stasera, ora di Nafuti. Però devo pigliare medicine pure, adesso, essendo sabato, dovrò andare alla ricerca della farmacia di turno, e se è lontano devo pigliare la moto. Meglio che macchina comunque, che ho l'aria condizionata rotta. Oggi schicchia, ho visto che saremo intorno ai 34-35 e si sentono tutti. Che io poi non sono abituato a queste temperature, a me mi crepa di brutto, mi crepa. Oppure me ne frego. Niente giornali, niente medicine, le bollette, ripeto, non scappano, i soldi non servono perché si paga col bancomat, se proprio devo andare alla Comec qua vicino, io era per fare il giro largo, capito, per andare ai discount, risparmiare qualcosa. La modulazione quindi è discreta, sono a 4 dita dal mic. L'apparecchio è quello, il 5005 alias 6009. Sì, bella presente, infatti cazzo, a prima chita non ti ho riconosciuto, questo ti dà la misura del fatto che, insomma, non era solita, dai. Se parlo vicino, ecco, così è, due dita dal mic, forse 4 watt, credo di averlo regolato sui 4-5 watt, e così vedo, sono lontano tutto il braccio dal mic e vedo che comunque lo smitter, i picchi salgono, quindi sicuramente sto uscendo in radio. E l'ho dovuto tenere massimo un quarto della sua potenza, perché se alzo, qua c'è questo rientro in AM, che non è un rientro di RF, ma è fatto così l'apparato. Tutti quelli che hanno questo apparato si sono lamentati con gli amplificati. Ci sarebbe da fare una modifica, però siccome è tutto SMD, io non tocco nulla. Ma cos'è? Tipo parlascolta? C'è una sorta di monitor sul microfono, così è? Allora, l'apparecchio di per sé ha il parlascolta regolabile, però è spento. Diciamo che tutti sono accorti, anche col mic normale, quando tu andavi a soffiare così sul mic, sentivi appena punto di rientro sull'altoparlante. Però non è un rientro REF, bisogna bypassare qualcosa a livello di circuitazione. Non so, so che io non ne tocco di questi, sono troppo, meno la mano ferma, non l'ho vista, eccetera. Ora ho dovuto escludere il pin 4, perché qui per alcuni apparati serviva il pin 4 della ricezione collegato, ma non è mai questo PMR. L'ho dovuto staccare il pin 4 perché sennò qua mi manda in corto questo apparato, che al pin 4 manda tensione, l'apparato manda tensione per alimentare il microfono originale, e quindi bisognava staccarlo da questo mic, sennò puff. Ho capito. C'è un adesso non so se è dovuto a questa famosa caratteristica della radio, però c'hai sotto un leggero principio di innesco, tipo Larsen, capito? Adesso non so se è dovuto a questa caratteristica della radio, o forse perché stai dando troppo gas al microfono. Sì, lo sento anch'io. E mi devo allontanare dall'apparato, dai. Vediamo se riesco ad allontanarmi. Cioè devo andare agli antipodi della stanza, boh. Così va meglio, dai. Sì, qua un quarto. Se lo alzo fischia. Se no sarebbe un mostro, mi se riuscissi a fartelo sentire. Qua c'è ancora l'effetto Larsen. Ora. No, questa distanza c'è meno, cioè mi allontano un po' e me lo fa di più. Adesso questa distanza sparisce, guarda. Più lontano e a pigliarla. Aspetta, mi sto annullando una sigaretta. Insomma, gira che ti rigira, alla fine, per una cosa o per l'altra, le radio migliori sono sempre quelle più semplici, dai. Pensa se potessimo metterlo a metà o tutta la manetta. Se trovo l'adattatore cuffie mi metto le cuffie e te lo faccio sentire più forte, ma deve essere un mostro qua, un vero mostro. Qua già così è abbastanza forte, poi no, non so, non conosco i limiti. Adesso il volume del mic, del cursore del mic, com'è? A metà o a un quarto? Allora, del mic diciamo un quarto, occhiometro un quarto. Il mic gain dell'apparato è ovviamente a manetta. Quindi se tiri su il livello del microfono, lo slider del microfono, cosa succede? Fischia? Vediamo se riesco a parlare senza farlo fischiare. 1, 2, 3, prova parlando ancora, guarda, così è a metà, 4 dita al mic, e se lascio pause fischia. Porca paletta, comunque senti la modulazione come si è aumentata di più. Certo, c'è questo rientro, questo Larsen, dai. Peccato, dai. Così a manetta, 1, 2, 3, prova, test, 1, 2, 3, prova, microfono a manetta, 4 dita dal mic. Sto orientando il mic in modo da fischiare il meno possibile, così dovrebbe essere ancora più tribula. Già pompa, già si sente che sta pompando, dai. Lo rimetto un quarto, vediamo fin quanto lo tollera. Prova. Prova, è un quarto, lo devo mettere, dai. Lo dicevano anche le recensioni su YouTube di questo problema noto. Ma questa è la potenza regolabile, Marco? Questo apparato sì, adesso è impostato sui 4 o 5 watt, praticamente la portante mi arriva a 9, in modo che quando modulo mi si accendono gli altri 3 LED e mi fanno da LED di modulazione, dai. E così li vedo, mi allontano tutto il braccio e li vedo, e quindi sto uscendo il mic. A voglia, ce n'è per i maialetti. Aspetta che... modulazione, ho messo tutti i watt, saranno 12 teorici, il filtro anti-TY me ne ruba, fai un decimo, no, che un decimo di più, fa che siano 10 watt reali adesso, dai, 10 watt utili. Bene, oh yeah. Anche, vabbè, te l'ho già detto, sia una nausea, preferisco preferisco la modulazione del 3009, anche se gli altri si difendono bene, però parlo di gusti personali, attenzione, però per il 3, quella del 3009 ha una piccolissima marcia in più. Aspetta, ecco qua, metto il baracchino in ascolto e fischia, sì. Poi, ti metto anche a lecca, prova. 1, 2, 3, testa, 1, 2, 3, prova. Da 45, dai. Fischia ancora, quando metto l'eco, ecco, l'ho spento, perché c'è, quando inserisci l'eco è come se entrasse un modulatore secondario. Guarda, ti faccio lo scatto, guarda, fanculo, ecco, vedi, accendo, spengo l'eco, è come se entrasse un modulatore parallelo secondario, capito? E farò far fischiare ancora di più. Sì, è un ulteriore passaggio nella preamplificazione, quindi ti dà quel risultato. Aspetta 20 secondi, arrivo, Sì, yeah. Prova. Vediamo se ascolto con l'altro. Prova. Prova. Guarda, è come se ci fosse qualcuno con l'asciugacapelli acceso. Cazzo, sta tirando un'aria calda. Bacarizzai. Quando è così si sta male anche in moto, capito? Mi sa che tolgo il parabrezza oggi. È il giorno che tolgo il parabrezza, sì. Cosa ti volevo dire già? Gli apparati o di questo apparato, non me ne ricordo. Io sto facendo colazione adesso, mi sto mangiando un gelatelli almond, quelli tipo magnum con la crosta di cioccolato e in tutto tempestato di nocciole. Conosco. Oggi i cremini o i pinguini, cazzo, non vedani, oh yeah. Adesso, gli altri rimangono quasi tutti, quelli sono le prime partite proprio. Sì, sono più veloci da mangiare, più morbidi, più tutto. Io preferisco comunque sempre i gelati che abbiano ostia o roba del genere, tipo cornetto. Però vabbè, mi ha dato a tutto, coppette, cornetti, gelati con secco. Invece ghiaccioli, no, i ghiaccioli mangiavo più quando ero bambino, fino al calippo, poi non, anziché bermi acqua, ho preferito i gelati più cremosi. Già sono umano, che non mangio ghiaccioli, è passata un'eternità. Mi ricordo ancora i prezzi, tu sei più grande di me e dovrebbe essere ancora più drammatico. Se compravo un ghiacciolo 100 lire, io i ghiaccioli colorati, non so cosa fossero, 100 lire. Ho visto i prezzi in una vecchia pubblicità dove io rientravo anagraficamente, capito? Tu li avrei conosciuti a prezzi ancora minori. Guarda, molte cose non me ne ricordo quasi più, figurati. Oh yeah. Sì, più o meno i prezzi erano quelli. Mi ricordo, qual era quello con la faccia tipo clown e il naso fatto di cingomma rosso, non mi ricordo il nome. Però ce n'erano due o tre così. Ma quello era già un gelato, non era un ghiacciolo, vero? io ricordo quelli con la faccia, era il Nembo GL Rider Super Chuck, mi pare, col naso di cingomma. Una cosa del genere, della... Boh, credo che fosse della Toseroni, boh, una cosa del genere. Poi c'erano gelati raggisti, ho trovato su Google, praticamente due gelati cremosi, no? Con lo secco, con ritratti, praticamente due neri classici con i labbroni, il cravattino e il cappello da Charleston, non so se è presente, no? Quel cappello piatto. Ho capito, sì. Roba nei 20-30, sì, ho capito. Gelati che adesso non potresti più fare, mi pare si chiamasse Zio Tom il gelato. Ehi, è una cosa del genere, sì. Mi ricordo. Adesso cosa ne buca da Pisu. Poi. Cazzo, poi questo caldo ti stronca anche l'appetito, cazzo. Boh. Ti fa passare proprio la fame. Vero. E infatti io sto mangiando poco e niente, anche perché questa influenza o simile che mi aveva preso mi aveva fatto passare il grosso dell'appetito, sono a mezza razione. Guarda, io da un po' di tempo a questa parte sto mangiando una volta al giorno. Vabbè, poi magari succede che magari io, cioè a fine serata magari appare un certo angolino, però in linea di massima sto mangiando una volta al giorno e per il momento mi basta anche, guarda. Allora io dopo secoli sto apprezzando, a parte le insalate di riso mangiate fredde, no, temperatura ambiente, anche la pasta fredda. Pasta fredda, fatta tipo insalata di riso, mi. Sì. E a crudo, tipo, cioè con i pomodori, a crudo magari con un po' di tonno, roba del genere. E già ci scende, un goccio d'olio d'oliva e sei andelli. Esatto. Vabbè, ne ho trovata una confezionata che volevo riprodurre a casa. Pasta alla greca. Gente, pasta corta, come vuoi tu, e ci metti olive nere, un po' tagliate a metà, olive nere, olive verdi, pomodorini secchi, e poi quel tofu, è presente quel tofu, quel formaggio giapponese che sa vagamente anche di ricotta mustia, così lo tagli a dadini piccoli, metti olio d'oliva, la fine del mondo è. Eia, beh alla fine sì, vabbè, visto che ci sei, magari sì. Se si busca la ricotta mustia, già sì, lo conosco il tuffo. E poi alla fine, cazzo, una volta che finisci il giro devi riprendere da capo, perché sennò mangiare per i matessi così, cazzo, anche lì ci si annoia. Guarda, io la pasta la sto mangiando forse una volta alla settimana, dai. Cerco di variare il più possibile. Mi sono accorto che sto mangiando anche meno pane, cioè pane, un classico, giusto le spianatine, mi. Poi per il resto si cerca di fare sempre qualcosa di diverso, un'insalata, le favette a Zassaresa, piselli, vabbè adesso rompere il gaglio, piselli, uova e cipolle, buone reti. Oppure roba fredda, cruda, insalatone, come si dice, di ogni versione possibile e immaginabile. Una bella fainè calda, bollente, come il sugaglio. Oh, mamma mia. Poi capita molte volte che non va giù gana di far nuda e va vicino a casa, qua c'è uno che fa le pizze da asporto, e niente, quella era l'ultima spiaggia. Penso che non sarà oggi ma forse domani magari una pizza ogni tanto già. Poi a me la mia preferita è a capo di acciughe, a Bonareda. Ma io non ho, oddio, pizza, qual è la mia preferita? Vabbè, ce n'era una particolare che mi facevano sempre, gorgonzola, pancetta e salsiccia. Abbastanza leggera poi. Immagino. No, non so perché, ma le due volte ho mangiato la pizza al gorgonzola mi ha fatto reazione brutta. Oh, e magari era un po' sciupata la gorgonzola, boh, conservata male. Sì. E ti dirò che nella pizza mi piace anche quando il gorgonzola lo metti quasi con la crostina di latto, che sa di terra, mi sa, mamma mia che buono. Te l'ho detto, non impazzisco per quel tipo di formaggio lì. Poi, vabbè, la numero uno è quella con insalata di polpi. Ah, i frutti di mare, ecco, lì casca l'asino, io preferisco più frutti di terra che non frutti di mare, non lo so, non riesco a congiungere due cose, cioè o mangio frutti di mare o mangio pizza, però le due cose assieme non mi scompifferano. Guarda, c'era il saraceno di Napoli. Andavo a mangiarla lì perché era veramente strepitosa, perché l'insalata di polpi era veramente fatta bene, teneri, e poi la pizza lo stesso era molto buona, quindi messe due le cose assieme proprio facevi bingo, buona idea. E poi a Castelsardo l'avevo mangiata con i moscardini, cioè i moscardini con l'ero dei moscardini, va, anche quella proprio da Oscar. Ah, col nero dei moscardini, che a qualcuno già può fare impressione il colore. Ti parlo per cose viste, cose di amici, tipo la cui madre aveva fatto risotto al nero di seppia, e loro tutti schifati che vedevano questa roba nera. Insomma, loro, morale, io, loro non ne hanno mangiato, io mangio niente a quattro ganasce perché il sapore è buono, cosa me ne frega il colore? E loro tutti, che schifo! Noi, ogni mangiata, le volte che capitava con gli amici andare a mangiarsi due spaghetti, su 10, uno, massimo due riuscivano a farti gli spaghetti nella seppia, il resto proprio non ti dicevano proprio no a, come si dice, neanche ti diceva no e boh, capito? Sì, è un po' una cosa, certo, l'aspetto può influire, però il sapore poi di seppia, di pesce, capito? Sì, anche il colore può fare molto, vabbè, bisognerebbe fargli assaggiare la pietanza da bendati, no? Poi togli la benda e dici, mi guarda cosa hai assaggiato, era buono, guarda cosa hai mangiato, magari poi dicono che era cattivo dopo, però assaggia al buio. No, ma quello che si mangiano i cinesi, boh, mio, su cos'era TikTok? Ho visto un video di una cinese che stava sbollentando un sarrone, proprio nell'acqua bolle, sbollentando, in modo da far cadere il pelo, e toglieva questo pelo con l'aiuto di una cosettina, una bacchetta, un coltello, eccetera. Ma un sarrone, un gatto grasso, se si mangiano anche quelli, quello, vabbè, mi ha fatto un po' di schifo. Cazzo mi ha sarrone, devi vedere poi grasso, mica, una ogni abbanza, pucci. Mamma mia, oi. Adesso sì che mi è passata un poco di fame, dai. Adesso già le due sono. Boh, dai Marco, io stacco un po' che c'ho la testa in fumo, cazzo, mi aggaggio. Magari ci sentiamo più tardi, ok? vado a prendere, a sciacquarmi un po' la faccia e a sventiare un pochettino, dai. Ci sentiamo dopo, o più tardi, dai, andare. E io, ciao Gianni, io adesso vedrò cosa riesco a fare, commissioni, non commissioni, perché con questo caldo proibitivo, casomai mi bagno la testa pure, insomma quello che riesco a fare faccio. Ciao Gianni, buona sventiata, come si vuol dire, ci sentiamo quando capita, non so se rientrerò dopo, ciao. Ehi, andavè, dai, ci aggiorniamo.